Hey, dog. Anti-bark collar. You want a Dorito, you gotta speak. Questo che avete sentito è invece lo spot di Dorito, uno snack che ha già registrato fortissime vendite. Lo spot è piaciuto moltissimo, mostra un cane che ha un collare antiabbaio e se lo leva e di nascosto lo mette al suo padrone, il quale riceve gli shock e quindi non riesce più a controllarsi e il cane senza collare gli ruba i Doritos e se ne va. Dunque investire in queste pubblicità carissime vale la pena. Perché? Perché gli indici d'ascolto raggiungono il 46,4% per un Super Bowl e ci sono stati incassi di 206 milioni di dollari in pubblicità per la rete CBS, che è un nuovo record. Questo conferma, uno, che la rete televisiva, le reti televisive restano comunque il miglior mezzo di distribuzione di pubblicità, due, che questa è una speranza che vale per tutti, la pubblicità sta tornando, forse il sentimento dei consumatori migliora, forse le cose stanno davvero cominciando a migliorare. L'anno scorso le pubblicità per il Super Bowl furono un semi disastro. Dunque vale la pena di pagare tra i 2 e 5 e i 3 milioni di dollari per 30 secondi di spot pubblicitario. You did that for 200 bucks, that's it? Yeah, absolutely. We had the, all the equipment we needed. Ecco, la voce che avete ascoltato è di Joshua Svoboda, che è un giovane di 24 anni che ha prodotto lo spot televisivo del cane con il suo padrone ed è stato lo spot che ha avuto, uno degli spot che ha avuto maggior successo. Ebbene, quanto è costato? $200. E il signor Svoboda è arrivato a questo spot attraverso un concorso e le patatine Doritos gli hanno pagato un premio di $600,000 per aver realizzato in modo molto semplice questo spot